andiamo. Io non ascolto che il suono dei miei passi. O vada in bando il segreto terrò. Malgrado mio m'arresto. Fu spento il padre mio e in vita io resto. Un Dio mi fu vogliamo, vogliamo. Fa fede, si lo sceglio, e dire che nessuno in triunfo si vendetta dell'empio facciamo. Il sentiero di Carmi saprò, il sentiero di Carmi saprò. Il sentiero di Carmi saprò.